l'altro, qua ci è arrivato un po' tardi, quindi anziché partire alle 3:30 è partito alle 5, però sta funzionando, capito? Già si sente, perché le case si sono raffreddate ormai con le basse temperature, ti devi coprire o stare con le stufe ed è una rottura di balle. Io ci avevo una coperta di quelle grosse stasera, dopo pranzo mi sono messo, va più freddo, mi sono messo, di solito io mi metto sul letto così senza manco scoprirlo, anche di notte, ma questa sera proprio avevo freddo, mi sono dovuto mettere una coperta di quelle in pile, cavolo, che danno caldo. Ho capito, sì, diciamo che freddo e umido, perché ha piovuto, per cui al freddo devi aggiungere anche quello, poi c'è l'azione anche del vento che fa sì che magari tu senti ancora più freddo, anche se magari non ce n'è, però da quella sensazione lì. Non sono bassissime le temperature, però stando fermo dentro casa, quando fuori ci sono 10 gradi, 11 gradi, insomma ti prende un freddo. Vabbè, certo. E stanotte l'hai sentito quel temporale? Non so se tu l'hai sentito, qua ha fatto vibrare tutta la casa, ha vibrato tutto, mi sono svegliato e soprassato. Sì, ha piovuto un bel po' ieri notte, già l'ho sentito, sì, ero sveglio, stavo guardando la TV sino a tardi, perché anche oggi ero libero. Stanotte però me ne vado a letto presto, perché domani è il turno di mattina, per cui non sarò tardi. Sì, già l'ho sentito il temporale, passata d'acqua, ha fatto ettolitri d'acqua ieri notte. E poi anche grandinato, dopo quel tuono lì ha grandinato forte qua, e poi ha cominciato a piovere, mi sono anche alzato a guardare, mi stavo preoccupando, cavolo, ho detto cazzo, qua si allaga tutto gatto. Perché a Mosa, per dire, stavano temendo che stava in passo il tempo, ed era sotto controllo tutta la giornata dalle protezioni civili, perché era tutto allagato a Mosa. Il problema del tempo a Mosa l'hanno sempre avuto, praticamente il fiume, diciamo, su Mosa è anche abbastanza largo, eccetera. Il problema è che quando c'è vento si agita talmente il mare che l'acqua non ce la fa a defluire in mare per l'azione delle onde, capito? E quindi poi tutta l'acqua che scende dall'altopiano che c'è su Campeda, quella zona lì che alimenta il Temo, capito? E ha fatto sì che l'acqua salisse su, quindi diciamo le vie che ci sono lì che costeggiano la riva del fiume sono state un pochettino allagate, ho visto scantinati tutti pieni d'acqua, eccetera, però si è fermata, dai, adesso un po' ha migliorato stasera e sembra che stia defluendo un po' diciamo l'acqua dal fiume. E poi il fiume passa in mezzo alla città, è quello che c'è, capito? E quello è il problema, fosse stato lontano tanto quanto, magari c'è il modo di farla assorbire l'acqua, ma così va in direzione proprio delle abitazioni. La zona del centro storico la coinvolge sempre, capito? E non è la prima volta, purtroppo per loro è così. Ma stasera ho visto un servizio su Rai 3, ho visto che stava migliorando la situazione, hanno fatto proprio vedere le onde del mare che stavano diminuendo di intensità, e quello favorisce anche il defluire del fiume verso il mare, capito? A Platamona praticamente hanno filmato due facendo surf con le onde altissime, sono andati a fare il surf, dice, hanno trovato il coraggio di, anche malgrado il maltempo, di fare surf. Beati loro, magari sicuramente sono persone giovani, abituate, allenate, perché diciamo entrare in acqua in questo periodo non è la cosa migliore, dai. Anche se hanno le mute, magari hanno le mute, però cavolo, fare surf con questo maltempo, stava piovendo, non lo so, è gente che proprio sfida la natura. E io non lo farei, però a chi piace, magari molte volte, sai, si sfidano tra loro a vedere chi resiste di più, non lo so, però è già è pericoloso, dai, quando c'è brutto tempo così è sempre un rischio. Cavolo, io ho visto quelli che volano col surf, che vengono trainati e volano, una cosa troppo bella, quello è veramente un bello sport. E ho visto, come che lo chiamano, sky surf, praticamente ti trainano e e ondeggi nell'aria, poi ogni tanto scendi e vai sul mare. È una figata, dovrebbe essere molto bello, però sono sempre sport estremi, boh, no? Io sono troppo tranquillone per fare certe cose. Tu lascia perdere, poi noi ormai siamo avanti con l'età già, e quella è roba per giovani. E tu già sei giovane, Carlo, io è che magari vado avanti, ma è meglio andare avanti. E così è, vabbè, dai. Tornando all'esame, eccetera, magari al prossimo corso vedo di iscrivermi anch'io, provare, fare un tentativo. Anche se mi verrà un po' in salita, diciamo, poter andare a tutte le lezioni, perché coi turni, già lo sai com'è, soprattutto d'estate, finiamo tardi la sera, e se le fanno di sera le lezioni sarà un grosso problema per me. A meno che non lo facciano in periodo invernale, nella fascia invernale, che magari diciamo che finiamo prima, perché i voli non finiscono molto tardi, allora sì, a quel punto qualche lezione la potrei fare. E vediamo un po', io un tentativo lo farei, capito? Giusto per provare, vedere com'è, anche perché non ho idea di quanto sia vasto il programma, delle cose che chiedono, eccetera, di come sia anche effettivamente fatto il corso. So che lo fanno mi sa che a Porto Torres mi hanno detto che l'hanno fatto il corso. No, sono il gruppo di Porto Torres, dell'area di Porto Torres, ma l'ha fatto qua a Sassari, nella Latte Dolce l'hanno fatto, capito? Ma Natalino l'aveva già fatto, anche l'altra volta era pronto, secondo lui dice che non lo passa, perché l'hanno presa in coso e non lo passa, non lo vogliono far entrare, così dice lui, non lo so, poi bisogna vedere. E vabbè, non lo so, dipende da tante cose. Comunque dai, mi dispiace per lui, perché insomma so che anda, sì, era così come hai detto, era il gruppo di Porto Torres che ha fatto il corso a Sassari, era così, sì. L'area di cosa di Porto Torres, caspitina, è un'area a Sassari, mi sa che c'è, non riescono a fare un corso qua a Sassari, magari con orari un po' diversificati per chi lavora anche. Ma non lo so, io a me non è mai interessato fare un radioamatore, me l'hanno proposto tante volte, però a me mi va bene qua, mi faccio quattro chiacchiere, mi sta bene così, non devo stare a comprare altre antenne, altri apparecchi, eccetera, no, assolutamente, mi sta bene così, tanto quattro chiacchiere faccio qua, quattro chiacchiere faccio là, quindi sarebbe la stessa cosa. E niente, e poi se uno ha la passione di fare di ex, parlare con l'estero, eccetera, eccetera, ben venga, ma a me non mi interessa più di tanto. Io sono sempre stato una persona semplice, mi piace qua, se sono tranquillo di qui, se c'è gente mi fa piacere, se non ce ne spengo, pazienza. Ho capito. No, io non è che per me è una priorità, per carità, io già sto bene anche così, ma è giusto per curiosità, capito? E poi anche passandolo, anche io non è che investirei più di tanto, e al massimo, capito, metterei su qualche antenna in più, un altro paio di antenne, capito, due o tre discese di filo, oppure anche due sole, capito, giusto per andare in V e in U, capito, e poi per in HF magari, poi per il resto non lo so. Beh certo, ma ci vogliono altre antenne, qua mi hanno fatto un casino per piazzare questa, ho dovuto far mettere firme, non me le volevano far mettere, il capocondominio ha detto di no, che questo dice, ho detto vorrei, mi servirebbe la chiave dal tetto, perché devo mettere un'antenna. Che tipo d'antenna subito mai? È un'antenna della 27 MHz, significa, ho detto guardi, io sono un CB, farlo al baracchino, no assolutamente, quelle antenne lì disturbano, questo e quell'altro, abbiamo fatto un po' di storie, ha detto se lei vuole mettere l'antenna e vuole le chiavi deve far mettere la firma a tutti i condomini, deve fare una lettera scritta o scritto che magari deve piazzare l'antenna e loro se sono d'accordo mettono il cognome e la firma a fianco. Solo così posso dare la chiave. Ho detto, no, lei la chiave me la dà lo stesso, perché se non me la dà io vado dall'avvocato e vediamo un po' se me la dà, perché lei è obbligato, anzi sono andato alle scomposte e mi hanno detto se c'è qualche problema interveniamo noi, me l'hanno detto chiaro e tondo, perché io avevo la concessione, ce l'ho tuttora, però non l'ho più fatta perché non ci vuole più, però la concessione io ce l'ho sempre pagata e tutto quanto, quindi ero in regola. E niente, Carlo, casini dell'altro mondo, hanno messo bigliettini, questo qui addirittura ha cercato gente per farmi togliere l'antenna quando l'ho piazzata, insomma casini, io lo so solo io, quello che ho lottato lo sa anche Claudio, perché è stato lui la verità che mi ha spronato, mi ha detto non mollare, perché tu c'hai il diritto di piazzarla, alla fine l'ho piazzata, però sempre con le rogne, capito, come stare a disturbare gli altri, capito, non mi piace. Sì, l'ideale sarebbe avere una casa indipendente dove insomma ti puoi divertire a mettere le antenne che vuoi. Purtroppo nel condominio è così, io ho la fortuna che non ho chiesto, ma ho le chiavi e ho le chiavi di tutto qua, capito? E niente, quindi sono andato, ho piazzato e non ho detto niente. Ma da poco, quando mi hanno detto che entravo nelle casse dello stereo, casse di quella di generazione vecchia, capito, che prendono tutte le interferenze possibili e immaginabili, capito, non TVI, non faccio nessun disturbo ai televisori, niente, anche al computer portatile, qua io ce l'avevo acceso prima, ascoltandomi un po' di musica, ho provato a modulare, mettere anche a manetta, capito, alzare anche i watt e non succede niente, nessun disturbo né alla televisione né alle casse del computer, sono quelle casse esterne, quelle a torretta che si usavano un tempo, che ce li hanno in due qua, e gente che si guarda le notizie, si ascolta filmati e evidentemente quando parlo io entro nelle loro casse. Quando modulo invece con bassa potenza dice che sentono tipo un ronzio, ma non si capisce niente, allora si rudeni il ronzio e si cambiano le casse, perché io ho un apparato omologato, c'è il numero di omologazione, non ho tutti quei watt che dovrei avere, sono 4 watt, per cui già va bene così. Carlo, secondo me tu l'hai disturbato la volta che hai attaccato 747, non me lo toglierei solo da mente, se tu attacchi così senza allineare vedrai che non li disturbi. Sì, no, così non dovrei disturbare. Ti ricordi qualche giorno fa che aveva attaccato il Galaxy prima di darlo a te? Praticamente uno di questi mi ha detto, sentivo un bip, però non sentivo altro, sentivo solo questo bip, capito? Ed è che l'avevo messo sul tavolo. Con quanti watt esce già, per curiosità, quel Galaxy? Guarda, supera i 10 di gran lunga, perché con la scala a 10 se ne va a fondo scala e oltre. L'ho messo con la scala a 100 e va quasi a 20 watt. E allora può essere, perché magari c'era qualche watt in più, però dice non capiva niente, ma sentiva questo beep, capito? Come, perché ce l'avevo inserito, capito? E ho detto, non lo so, forse era qualche altro disturbo, io gli ho detto così, però in effetti ero io, capito, con la tua radio. Ma magari quando metti molti watt succede, capito? Ma io disturbavo uno al telefono di quelli cordless, però era quei cordless che vendevano, ti ricordi, i marocchini vendevano quei cordless un tempo, e c'aveva quello lì. E praticamente mi faceva sempre storia, aveva messo un articolo sul giornale, la rosa dei venti, la rosa rossa, si firmava e scriveva dove sta le scomposte, mi stanno disturbando il telefono, questo e quell'altro, storie così, capito? Poi aveva messo tutti i portoni della zona e il bigliettino cercando gente per farmi togliere l'antenna, facendosi, cercando chi gli dava retta, nessuno gli ha dato retta, mi hanno anche avvisato, a me hanno ritirato i bigliettini, erano tutti strappati. E ti sta bene perché sei un pirata. Ciao Tino, buonasera. No, sto dicendo le rune che passavo, che ho passato all'inizio, che è allucinante qua. Stavo per arredermi, però poi la verità è stato Claudio che ha detto non mollare, tu hai diritto di piazzarlo, c'è apparecchio omologato, quindi cosa di nafutti? C'è la concessione, c'è tutto, perché devi mollare? Certo, ciao Carlo, buonasera. La Rosa dei Venti, la Rosa dei Venti non è a Porto Torres, è una pizzeria se non sbaglio. Eia, eia, sì, c'è a Porto Torres, la Rosa dei Venti è via Principe di Piemonte, esattamente. Ecco, no, vabbè, gli ho fatto il piazzale esterno io lì a Porto Torres con il mio escavatore. Mi è rimasto impresso, insomma, vabbè, andavo anche a prendere le pizze da ragazzo, quindi già lo conoscevo, ma non pensavo che era quello. Ma questo qua, c'era quel giornale di Sassari che davano praticamente nei supermercati gratis, non so se te lo ricordi, e lui aveva messo l'articolo lì, si firmava la rosa dei vini, alla fine poi l'ha giudito, l'ha detto vai ammazzati, perché si è messo a dire cose dalla finestra, ha detto vai ammazzati, da me ho saputo che si è piccato. Hai visto la tua torretta? È l'unica cosa che avevo. Ciao Tino, buonasera. Niente, già, quindi se ha fatto quella fine lì, ha preso le interferenze a Rusai Beddo, allora. Sì, no. Mi hanno detto il palazzo che, siccome era un po' balengo, era di quei tipi un po' povera, cioè se è morto non fa, però di quelli un po' soggetti, no, che lo pigliavano tutti in giro. E la moglie lo picchiava, capito? E mi hanno detto nel palazzo che pigliava su sé dalla moglie. È andata a scuola, lui insegnava e si è piccato nel bagno, si è messo una busta in testa e si è piccato. Ah, ho capito, forse lo conoscevo pure di vista, già ho capito chi è, era passato di ruolo da poco. Ma che gente che conosci però, Carlo? Lo so, perché era un ex collega di mia moglie, capito? Ma non è quello che si era impiccato giù al produttore stesso negli alberi di fronte alla... Ma io sto sbagliando, di fronte all'incrocio dei due mari. No, questo si è piccato a scuola, dentro la scuola. E comunque ha a che fare con i pastori, se colleghi. Bene. Sì, Gianni, già ho capito. Hai capito? Sì, è già quella persona. Sì, era, come hai detto tu, una persona un pochettino particolare e evidentemente non ha retto a tante cose, capito? E poveraccio, dai, non ha fatto una buona fine. Sì, non ha fatto una volta, mi ricordo quando eravamo ragazzi, l'avevamo detto, ascolta, se c'è il coraggio vai da quella ragazza e digli ci vieni con me a prendere la pizza. Si è andato e dai, poi mi dice cosa, no, vai tranquillo, l'abbiamo mandato a questa ragazza, ha detto sì, adesso te la do la pizza, parla con tu un ciafu. ho capito. Poveraccio, sì, già era quello che hai detto tu. Kappa. Ehi. Ah, quindi era qua a Sassari, se sto con tua moglie lì a scuola. Allora, lui era una vita precario, no? Quando poi hanno fatto le missioni in ruolo, capito, dei vecchi precari della scuola, eccetera, lui era uno di quelli storici, era tutta la vita, cioè non ha mai passato un concorso e l'avevano passato di ruolo, capito, dalla graduatoria dei precari, capito, perché aveva un sacco di punteggio. Però avevano fatto le missioni dal concorso, dai vincitori di concorso e un po' da quelle graduatorie lì dei vecchi precari, perché mia moglie aveva dovuto fare il concorso e l'aveva vinto, capito? Lui invece era passato così e tutti dicevano: ma come fanno a passare di ruolo uno del genere? Infatti già ci è durato poco, pochi mesi era passato di ruolo, vabbè, infatti, diciamo per vecchiaia l'hanno promosso. Sì, pensa che mia moglie proprio all'inizio della sua carriera di insegnante gli avevano dato un anno la cattedra di Bono e l'aveva incontrato lì, capito, a Bono, alle superiori. Poi mia moglie era rimasta incinta, quindi non era più andata perché dopo il terzo mese, capito, aveva nausea, eccetera, e il medico gli aveva fatto certificato, non era più rientrata e l'aveva perso di vista. Poi quando avevano fatto i passaggi di ruolo, mi ricordo ero andato io a accompagnare mia moglie e mi ricordo che c'era lui lì al provveditorato dove c'era prima la questura, capito? Sì, io ho capito, poveraccio. Cosa insegnava lui? Per sbagliare, ma insegnava italiano, capito? Penso fosse laureato. Scusatemi un attimo che devo rispondere al citofono. Sì, laureato era laureato, quello lo so di sicuro. Avanti. Va buono. Stavo leggendomi questi bonus che stanno dando per sposarti. Ti danno 20.000 euro, Quindi se ti vuoi sposare nuovamente. No, ti l'ho fatto una volta, lo sbaglio, non lo faccio più. Cosa c'entra? Ti sposi e poi rinvii quello che ti danno e amici come prima. K 20.000 euro, boh. E se non li vuoi ti ricordi la faccia. Trovarmi un attimo e poi rientro. Ciao, comunque, se non ci dovessimo sentire. Ciao, ci sentiamo, Carlo. Buona serata se non ci sentiamo. Ciao Carlo, ciao. Gianni, tu scherzi, ma è in realtà, Ma sembrava che stiamo tornando ai tempi di Mussolini. Per carità. Adesso voglio ottenere una cosa, voglio ottenere il reddito di cittadinanza, ne voglio fare poche di cose. C'è gente cazzo, che capa la reddito di famiglia, che il marito ha perso il lavoro, cazzo di rovina, si ritiene il reddito di cittadinanza. E qua sì, ciò che non avevo scoperto, però devono informarsi a chi lo stanno dando anche, oppure impegnare la gente per quello che gli danno. Sì, ma io sono d'accordo su quello, tiro, sono d'accordo con te, certo non lo posso dare a cani e pusci, non sono d'accordo che lo diano per dire ad extracomunitari, che ci prendono anche per i fondelli, perché ne hanno intervistato uno, l'ho visto su internet, e ha detto: come mai sei in Italia, sei venuto in Italia? Perché qua in Italia ci danno i soldi senza lavorare, si è messo a ridere. Ha ragione, noi, ma non la colpa non è la sua, ma a te se ti ridanno, se ti dicono: ascolta, domani fai una domandina che sul tuo conto ci saranno 500 euro, tu la fai? Beh, certo che sì, però infatti è sbagliato il modo in cui è stato fatto, non è sbagliato darlo, è sbagliato il modo, bisognerebbe darlo a chi veramente ne ha bisogno, non a cani e porci, e gli altri soldi che avanzano magari darli in più a chi prende poco di pensione, che non ce la fa finire il mese, che non ce la fa fare la spesa, specialmente adesso che stanno aumentando le cose. Io vedo anziani, guarda, che mi fanno pena alla cassa, ma aspetti, io arrivo sino a pagare 10 euro, se di più non posso prenderlo. Una volta praticamente c'era un signore dietro, gli ha detto: non si preoccupi signore, lo prenda, glielo pago io, gli ha dato il resto dei soldi, capito? Lo so, è che purtroppo è gestita male questa cosa, perché io ho fatto un lavoro stamattina a una signora, questa fa parte degli aiuti così per i poveri, questa roba qua, no? Ma tu io lascio perdere, mi stava raccontando delle cose che anche quando fai la spesa tu non hai una busta per dare ai poveri, non è detto che gliela danno, fanno una selezione, nel senso che, per dire, conoscono anche le persone che non quello non glielo dare perché tanto ha la macchina, questo, quest'altro, quindi non ne ha bisogno, capito? Fanno una selezione. Sì, Matti, uno può avere anche la macchina da prima e poi aver perso il lavoro, e cosa vuol dire quello? Non è una buona selezione quella lì. Uno può avere la macchina da prima e poi perdere il lavoro, e beh, cosa fai? La macchina gli rimane, è normale che ce l'ha, la macchina le serve, però non è caso che l'ha comprata nel momento. Non lo metto in dubbio, però chi ci lavora in quel campo lì conosce la gente, e non è giusto che, infatti ho detto, ma realmente questa roba che se io decido di dare per dire, che ne so, anche una bottiglia di olio, questa roba qua, troppo bello sarebbe che lo diano agli altri, se lo prendono loro. Ah, bene, buono sapersi, quindi la prossima volta che faranno la ricerca ci piangiamo un po' tutti. Vabbè, certo. C'è gente che ne approfitta di questa cittadinanza, addirittura l'ho trovato di quelli di colore che se ne sono rientrati nel loro paese si ritiravano le tue cittadinanza lo stesso, capito? Che qua non c'erano, non risultavano nemmeno di cui si risultava, si ritiravano le tue cittadinanza, per dire. Bisogna amministrare bene le cose, perché se uno è un padre di famiglia che perde il lavoro, oddio, non voglia, a tutti può succedere di perdere il lavoro, può succedere a me, può succedere a te, può succedere a tutti. Perde il lavoro e di colpo si ritrova, campava dal lavoro, non c'ha magari soldi da parte, cosa si trova in povertà, perché non, naturalmente dallo stipendio faceva la spesa, pagava tutte le robe e adesso non può più farlo. Sì, già può essere, già, è un discorso che fila, è successo anche a me, per carità. C'è stato un periodo che la ditta vecchia in cui lavoravo io ha chiuso in punto in bianco, io dopo 27 anni sono rimasto senza lavoro, dopo 8 mesi ho preso la disoccupazione, ho detto quello mi aspettava, avevo qualche soldino, però in quegli 8 mesi non è che stavo aspettando che mi cadeva il lavoro dal cielo, In quegli 8 mesi mi sono mosso anche io, perché giustamente è vero che ho preso degli aiuti, però allo stesso tempo stavo cercando il lavoro. Quando è successo che il lavoro si è ripresentato, ho rifatto una cosa, ho dichiarato che stavo lavorando e l'ho mollato, anche se ti dico la verità che stavo meglio quando stavo peggio. Perché magari prendevi quasi lo stesso tanto e non andavi a lavorare, e lo so, è così, però ci sono anche i pro e contro, perché ci sono per gli albergatori che si lamentano. Io ho visto, non so se hai visto le Iene l'altro giorno, ci sono degli albergatori che si lamentano che non ci vogliono andare i ragazzi per questa storia del reddito di cittadinanza, se la stanno prendendo con calma, però loro non li vogliono pagare come devono pagarli. È normale che quelli dicono, cavolo, per prendere 800 euro lì e lavorare, ne prendo 800 senza lavorare e mi conviene non alzarmi dal letto. È un discorso che farebbe chiunque, ragiona. È giusto, ma a prescindere, cioè tu gli hai 800 euro senza far niente, ok, ma se il ristoratore gli offre 1500 euro, che è un prezzo più che onesto per il lavoro che fai, uno dice, hai detto un attimino, e come andare a lavorare, però al ristoratore le costa il doppio di quello che le dà, perché deve pagare contributi e quant'altro. Cioè, lo sappiamo queste cose, non è che... Sì, quello sì è vero, però c'erano dei ristoratori che non volevano essere manco intervistati, perché questo qua l'aveva sputtanati, gli ha detto che lo pagava poco, li faceva fare un sacco di ore e lo pagava poco, capito? Non gli dava nemmeno 1500 euro, quindi ci sono anche quelli che ci vogliono sgamare su certe cose. Adesso vabbè, c'è questa comodità, se no magari tutti sarebbero andati, anche per dandoti di meno si sarebbero andati lo stesso, però adesso c'è questa comodità che si trovano alle spalle, quindi ne usufruiscono, normale, no? Ma è normalissimo, però tu dai all'impresa la possibilità di nuove assunzioni senza pagare tutte queste tasse qua, vedrai che il lavoro si muove ancora di più, perché io per dire, io impresario assumo una persona e devo dare per dire 1300-1400 euro a un operaio, ok, glieli do, però non posso pagare anche 1500 euro di tasse, quelli dimezzale a me, o perlomeno fare pagare molto di meno, dammi la possibilità di aumentare il personale. Allora vedrai che lo stato di cittadinanza andrà a decadere, invece così ora lo tolgono diretto perché non vogliono loro, questo non lo so come succederà, se succederà, però noi da valutare. Buonasera. Sì, anche quelle. Ciao, un attimo ti faccio entrare, Gavino. Anche quello è da constatare, certo. Avanti, Gavino. Ma cosa, Gavino? Ciao Tino, ciao Gianni. Ciao, mi sembra più Gavino della voce. Ciao Torino. Ciao Imo. Vabbè, io avrei fatto solo una cosa, vi stavo solo poco fa. Allora, ecco perché ho portato a Meloni io. Perché del tuo direttore di Cianza. E ne ho le palle piene, anzi travagliare una vita, ma cosa? Andai in pensione a pigliare due citti e chiesti di graziati, caimani e magna gratis. No, allora tu stai pigliando il reddito di cittadinanza, poi pulisci la città, il giardino è tutto fatto. No, dopo immediatamente, subito! Certo lo chiamo uno di 60 anni, no, anche tu se lo posso continuare a pigliare, anzi se proporta 1.000 euro. Io questo è il mio pensiero, avanti ti. Io credo che non lo tolgono, però è giusto il discorso che stai facendo tutto, né? Nel senso che, come ho detto io poc'anzi, è vero, mi dai quei soldi lì, però mi devi integrare nel mondo del lavoro, e quando te lo dico io, non quando vuoi tu, nel senso che oggi ti posso chiamare per dire 4 ore la mattina, domani ti chiamo 4 ore la sera, dopodomani ti chiamo le 4 ore pomeridiane, ti devo impegnare in maniera tale che tu non abbia la possibilità, che poi magari volendo si fa, non abbia la possibilità di impegnarti in altro, capito? Cappa, quel lavoro nero, si sa. Niente, l'avrei impegnato a fare, non so, tre parli, diciamo, 3 ore la mattina, 3 ore la sera. Ecco, così è fregato. In orari in cui non può fare lavoro nero. Ma perché è sbagliato comunque, dare i soldi regalati così, e troppo bello sarebbe. E si è mai giocato il burro, una vita. Per andare in pensione per 7 anni che ho sempre lavorato, che poi ti giuro Tino, io sono andato dal 1° ottobre l'anno scorso in pensione, ma mi manca il lavoro, mi manca. Però dico questo, il lavoro vuol vita nuova, non è che praticamente, comunque, ma un messaggio pure del vito. Comunque niente, io ripeto, ho votato a Meloni per questo motivo, che toglie il reddito di cittadinanza, che poi giustamente metto Salvini e poi c'è, il reddito non viene tolto, viene adeguato, giustamente le persone che hanno 20 anni tolto, oppure devo fare i lavori in questo momento, io ci vai, no, tolto il reddito, questo bisogna fare, è impressionante, cosa c'hanno, poveracci, 500 euro, no, a 1.000, quei soldi che togliamo, questi personaggi fannulloni, perché io li chiamo fannulloni, a questi, e poi un'altra cosa, l'avrei, diciamo, tolto il reddito di cittadinanza, arrivate questi anziani che hanno bisogno, gli extracomunitari, Dino, li avrei tolto del tutto, perché questo è un reddito di cittadinanza italiano, non extracomunitario, cioè perché la punta non cambia di là, infatti ci vedono 9.000 persone che mi danno un reddito, e mai giunti in Italia, mamma mia, io avrei innanzitutto condannato chi gli ha fatto il fondo per avere il reddito di cittadinanza, perché devo controllare, cosa lui dice, sono 10 anni e mi tocca, no tu sei straniero, te ne avrei dato, io l'avrei pensata così, avanti già. Sul fatto che debbano lavorare per ritirare il reddito di cittadinanza sono d'accordo anche io, ci sono tanti giardini da ripulire, strade, questo e quell'altro, nel verde urbano c'è tanto lavoro, che lasciano zone abbandonate e sembrano cavolo, a volte sono gli stessi cittadini che si mettono a lavorare, l'hanno fatto anche qua vicino a casa, hanno buttato gli alberi, hanno tagliato l'erba eccetera, il rione del Monte Rosello ha formato un gruppo e fanno tutti questi lavori, capito? Perché non li fa chi li deve fare. Sì già, ma non spetta a me creare questo, scusate Antonio, creare questa cosa qua, spetta allo Stato, no? Al Comune. Non è questione razzistica, però è così, questa gente di colore qua è venuta a prendere i soldi più che altro, perché gli hanno detto di fare così, perché loro mica lo sapevano, se sono qua è perché gli hanno detto. E colui che l'ha intervistato oltre che ha detto che prendevano i soldi, e vi violentiamo anche le donne, così ha detto. Sì, perché non ne fanno niente, non è compreso, massimo 2 giorni dentro e poi di nuovo fuori, perché tu costi alla comunità, costi alla galera. Sì, è così. Sì. tutte cose che bisogna rivedere, la storia dell'elettricità di cittadinanza è tutto da rivedere. E da dare a chi ne ha bisogno, secondo me, e toglierlo a chi non ne ha bisogno. Ma bisogna che si dosi, ci tratti di tutta la vita, con la birra in bocca, vanno, si comprano la birra, discount, e poi stanno tutto il giorno con questa birra in bocca, la mattina presto birra calda, poi va di schifo, si comprano la birra così e poi stanno sempre bevendo sui muretti così la birra. Io sono uno di quelli. Sì, quello si sapeva, Eugenio, ciao, buonasera. Ciao Eugenio. Buonasera a tutti di nuovo. Qua sta andando, venendo la luce, boh, non si può fare più nulla. Ciao Eugenio. Ciao a tutti di nuovo. Mettiti il gruppo elettrogeno. È così ragazzi, è così. Va bene, dai, mi allontano dalla radio che devo fare due cosette, già sono in quel X. Ciao Eugenio, non mi hai sentito, ti ho detto, tu già lo so, ti conosciamo ormai, lasciamo perdere, dai. E allora, è così bello stare in giro senza fare niente. Ogni tanto fermi qualcuno, le chiedi qualche spiccio, lo trova, ti compri la birra e ti sconvolgi tutto il giorno, bellissimo. Vai in giro da mattina a sera, anche la notte, tardi, sei sempre in giro, sì. Vabbè, ciao. Ciao T, ci sentiamo. Ciao T, ci vediamo, ciao. Avanti tu. Stavo scrivendo un messaggino, avanti G. Via. Ma chi sei che mi arrivi così, che mi arrivi in basso, non riesco a capirti. Perché sono liscio, non c'ho niente. Adesso fra poco sono in ciabattine. Ma chi sei, Torino? Eia. Ma io dai, mettiti le calze. Ma guarda così, se tu vieni in condizione che sono, Gavino l'ha visto. Infatti mi ha detto, dove sono io mi arrivi abbastanza bene per essere come sei messo con l'antenna. Pensa un po', se tu lo vedi tu icca e pitta. Sai, sono messo male, no? Invece se sulla casa c'ho a fianco non me la fanno mettere, quindi sono piattata in terra un palo e via, capito? Vabbè dai, comunque già arrivi. 3-4 modulati, dai, già va bene. Già ci sentiamo lo stesso. Cappa, avanti già. Ma sicuramente c'è qualche varco che è occupato, che c'è qualcosa che non fa passare le onde lì, perché sennò Torino arriva bene, anche a Sassari arriva bene, io che se sfondo scala qua. Poi in lontananza lo stesso tu mi sembra che arrivi bene, lo stesso, no? Io non so, Gavino, dove si trova con l'esattezza. Allora, la strada sorso di Bidriati ce l'è presente? Sì. Da una parte va per Grazia, dall'altra parte vai verso Sorso e quell'altra parte. Non ho capito. E a lui gli arriva bene, mia Gavino. Perché magari linea d'aria è libero, capito? Ma chi io? Sei già dove abito io? No, dove abita Gavino. Ah, dove abita Gavino. Gavino magari per Torino è più, diciamo, è più propenso, vai. Io magari sono nella zona negativa per lui. Kappa. Sì, sicuramente così. Sicuramente lui c'ha qualche cosa che tappa la zona tua, capito? Io adesso sto pensando, mi sto facendo una specie di itinerario dove abiti tu, dove abita Torino, e secondo me c'è qualcosa che non fa passare le onde lì. Vabbè, io sono una zona alta, dottore, ma io abito dentro un fosso praticamente. Casa mia è un fosso, perché bisogna scendere la discesa e niente, è il risulto più basso delle altre case che ho attorno, quindi sono in un fosso. E io già lo so dove abiti tu, c'è una consegna lì vicino, quindi lo so dove abiti. Ma tu consegnavi anche la spesa a casa? Certo. Provo e facessi solo il giro dei supermercati. No, qualche volta quando c'era qualche consiglio da fare la facevo, perché prima c'era il ragazzo che lo faceva, poi se n'è andato, ha sbattuto le chiavi in terra, gli ha detto il periodo degli schiavi sono finiti, già sbattuto le chiavi e se n'è andato. Però lui si è, che lavoro lo prende a schiaffi, ho capito. Un attimo, sono la bassa. Io. Sì. Tu sei verso il Lione, là. C'è una traversa lì, non dico quale. No, io sono a Lilioni. Proprio la mia traversa è la prima lata. E vabbè, c'è una traversa interna là. Sì, ma Lilioni è questo, Perché il resto è c'è un 31, anzi, adesso è diventato prolungamento di via Sassari. Ah, vero? Ehi, prolungamento via Sassari. Cioè dopo la cantoniera e prolungamento Sassari, via Sassari. Esattamente, la 108 inizia dopo l'incrocio di Sorso, non, non l'incrocio della cantoniera, l'altro più su. Ho capito. Mancali eccetera eccetera. Esattamente. Poi da lì in poi inizia la 131. Ho capito. Ma è roba nuova, perché prima io consegnavo lì, c'era una fabbrica, adesso non mi ricordo come si chiama, che consegnavo l'acqua eccetera eccetera, facevo la consegna dell'acqua ed era lì Lioni. Dovevo salire sì da su all'altro bivio, girare e scendere verso giù e dove c'era la fermata del Pulva lì, ma adesso la Sardilla c'era e adesso è chiuso da anni. C'era la Sardilla, sì, consegnavo lì ed era lì Lioni, quindi lì una cosa quando non c'era ancora lo spartitraffico avevo girato lì, cazzo, non me ne accorto che c'era la polizia, uia, e hanno i bus in moto e io sono andato a capannone, cazzo, di che conoscevo, mi sono segretato dritto un gurugamio e ti sono raduto. Il giorno dopo l'ho preso il mio collega, cioè me non mi dai la battenti. Poco sei incazzato. Sto cazzo, tu te ne sei scappato, stavo prendendo a me la patente. Tu ieri se ne è scappato, l'abbiamo visto noi che cazzo. Non sono riusciti a trovarmi, capito? Sono andati dritti. E io dentro, un capallone, che mai detto. Ma quella è chiusa da anni, quella è chiusa da anni. Lo so. Ma salvi qui era la zona industriale, la serviva anche lì. Davvero? Davvero. Buona a tutti. Buonasera, chi è? Io non ho capito chi è sinceramente. Dovete riconoscere? Si deve avere un patato in bocca. Gavino. Dove c'è un patato in bocca? No, chi sei, Gavino? No, o è Bulbozzo, o è Gavino. Ma avevo un patato in bocca, cioè. Oh, mi sta facendo uno schifo. Aspetta, Eugi. Chi sei? Non ho capito chi sei. Un abito di punti, dai, sta provando la radio. Sta facendo ben male, sì. C'è un patatone in bocca. Guarda un po' adesso. Prova, fa un passaggio lungo. Guarda, 1, 2, 3, prova radio. Adesso va un po' meglio, ma chi sei? Bulldozer, da come, dal modo di parlare mi sembri. Ehi, già, sto provando il microfono se riesco a sistemare. Non mi piace, sinceramente, non ti stavo riconoscendo, conoscivi come se avessi davvero la patata in bocca. Infatti stavo, ascolta, in questo passaggio invece già è successo qualcosa. Ha migliorato un po', ma la voce è chiusa, capito? Non è aperta come modulazione. Ciao, la Giulia, è troppo occupato. Ok, va, vuole chiarita un po', va. Ok. Prova a regolarla e vediamo. Poco la regolare prima. Sono così e fumi. Massimiliano, ma non si vendi? Nulla, non sto toccando niente. Ma con che apparecchio sei, Massimiliano? 14. Non è che cosa, che microfono gli hai messo? Un 60 li ho messo già, un 60, aspetta, provo. Così cosa è successo già? No, io se ho un MC60, prova a controllare sotto se è toccato con la levetta che c'è sotto, perché non ha nulla dell'MC60. Prova. No, aspetta. No. Cuppa, un bel cuppa. Avanti. No, non serve lui. Sta andando male quel corso, non va bene. E magari da regolare, dai, non è che sia... Magari deve regolare qualcosa. Non è che il bike gear l'hai alzato per sbaglio troppo. Sembra che sta usando un altro microfono che è cupo proprio. No, infatti, dell'MC60 non ha la modulazione assolutamente. Io l'ho sentita, Massimiliano, con l'MC60 ci vuole bene. Anche io lo sento sempre, lo sento bene quando lo sento. Ma adesso mi sembra che c'è un mic normale, ma è cupo bene. E l'MC60 non è normale. Ho detto, sembra un microfono normale che esce per cupo già. Ah, infatti ho detto, prova a vedere se la levetta che c'è sotto da 50, mi pare, non mi ricordo adesso quanto è. Ci sono due posizioni, insomma. Ma la capsula è l'originale, Massimo? No, non ci sei. Vabbè, riprendi tu lì, poi già ci chiamerà. Andrà bene. Noia, vabbè, hai visto oggi. Domani è bella giornata a proposito, ho già. Quindi tutto cambia. Uno o due giorni di sole e poi di nuovo torna attaccato. Ma stanotte a me mi ha fatto vibrare la casa quel tuono, non so se l'hai sentito. Cazzo, mi sono svegliato il soprassalto. Anche il cane si butta a baggiare. A me mi è attaccato il solito differenziale. Faccio la sopra in cucina e l'ho sollevato di nuovo. Mi si è accesa la lampada di emergenza immediatamente. Ma io, grazie al mio, quando manca la luce, ce l'ho sempre la luce qua. È vera cosa. Non è difficile come te me, ma la luce. Ma? Anche io ce l'ho la luce. C'ho la pila. Dai, c'è proprio la lampada neo, a LED proprio. C'è la batteria dentro, legata a 220. Avanti, Ginio. Ora, aspetta, non è questo. Ora. Ecco, così, guarda un po'. E adesso anche è troppo, abbassa appena. Guarda così già, 1, 2, 3, prova. Appena ancora abbassa, perché sta quasi distorcendo, abbassa appena. Questo che microfono è? Allora, questo è un Tarder più 3. Guarda, l'ho abbassato un pelino come mi hai detto, va bene così? Così è perfetto, così va bene. L'altro, secondo me, tu questa rata te l'hanno venduto, perché sembra che non sia la capsula sua? No, già è la capsula sua. Già è quello, già. È che io con 14 c'ha poco mic gain, capito? Quindi non riesce a schiarirmi bene la voce, devo usare un microfono che ha un po' più di acutimi, capito? Il Turner ce li ha di per sé. Ho capito, dai. Non ce la fa portarlo più. Ma se poco fa io non ti cavo, non lo sapevo, guarda, ti giuro, non l'avevo capito. Accorto subito, là. Ciao Tony, anche a te, buonasera, bella scuola. 100.000 volte meglio, Massimiliano. Neanche a paragone prima, ma brutto, detto che fa già dicevo, un micro 60, detto sì, a me mi sembra un microfono normale come sto facendo, è molto cupo, capito? Io mai sentito così basso a te, brutto in radio, brutto proprio. Vabbè, siccome è collegato a una specie di pedale, là, a un pedale di chitarra, e c'ha delle regolazioni da fare, magari vuole regolato bene, capito? Io l'ho attaccato e bisogna fare le regolazioni bene, là. Se lo proverò diretto, vedete. Ero sistemico, calma. L'ha alzato da dentro il macchinino. Era nel gioco, non lo usarci. Vabbè, comunque, là, se va bene questo, tengo questo. Sì, questo qui va benissimo, questo va bene. Purtroppo certe cose non si riesce a comprendirle, l'elettronica è una cosa allucinante, basta una cazzata. Ma infatti io non sono il tipo che tocco, faccio, giro, cioè è che con questo tipo di radio, col 140, 80, ho avuto sempre problemi con il MC60, invece con 430, 440 manco, perché hanno mic gain, capito? Puoi aumentare quanto vuoi e ti schiarisce la modulazione. Anche il 140 ce l'ha il mic gain, ce l'ha il cursore. Sì, però è troppo poco quello che ha, hai capito? Quelle lì sono radio un po' diverse, là. Io Massimiliano l'ho avuto il 140 con le MC60 e dovevo toccarlo con l'unghia piano piano, se no aumentava troppo, aumentava un bel. Se può darsi che sia anche il tipo di apparecchio che c'hai, che magari c'è qualcosa, perché io mi ricordo quello che avevo io, mi diceva abbassa che è troppo forte, e dovevo usare l'unghia piano piano, abbassarlo, perché se no usciva troppo forte. Via, positivo. Hanno fatto una mezza cagata, la verità, questi cursori così, da. Ma lo vedi che adesso sei tu. Allora, ciao G, buonasera. Ciao Massi, ma lo vedi che adesso la modulazione è la tua. Ma questo è un Turner più 3, capito? Non è un 60. Già ho capito. Ma poco fa non volevi sentito. Cosa vuoi ti dica, boh? Se vuole pulire sotto le ruote, può pulire la radio. Ma a me non è la radio, è solo il microfono. No, bisogna... Allora, io l'ho provato con un mixer del 60, a vedere se lo fa spingere, e lo regoli come vuoi tu, capito? Gli acuti, bassi, medi, medio-bassi, lo regoli come vuoi tu, lo fa uscire con un 60. Non ho capito. Vediamo un po', il mio segnale la radio lì da te com'è oggi? Qui c'è questo momento, c'è la mia antenna sta toccando praticamente in terra quanto si sta marcando. Allora guarda, tu sei segnale di 8 e mezzo a picchi di 9, 9 e 10. Quindi va bene, sì. Considerando che c'è l'antenna che sta irradiando in terra praticamente da qualche curva. No, il segnale va bene, avanti tu. E io invece mi sveglio, come ti arrivo, con la terra messa male. Tu sei Santiago 8 a picchi di 9, è buono anche il tuo il segnale. C'ho il palo in terra, 3-4 metri di palo e buono. Perché sul tetto non me la farò mettere qua a fianco, e vabbè, pazienza. Andare. Gianni, stamattina ho visto l'antenna tua, era un po' curvata. Un bel po'. Come è curvata? Col vento che c'era, stamattina quando sono uscito dall'ospedale, passo lì, perché mi viene più facile, mi rientro prima a casa, capito? Se non trovo traffico nei semafori. E ho ben pigiata, era da me. Ma piegata perché c'era vento? E mica piegata per altre cose, dai già. Ah, scherzo, che sono cassulzato. Io già non ne ho le cose di uscire. Per vederla, ma l'ho detto a Elena di controllare, mi ha detto no, già era dritta, non ci aveva nulla. Io mi devo preparare qualcosa. Dai, vi saluto, buon proseguo, ciao Massimiliano, ciao Eugenio, ciao Gianni, buon proseguo, mi sento tenuto ma ho un po' di appetito. Ci sentiamo, ciao ciao. Ciao Tony, ci sentiamo, stammi bene, buonanotte e buona carica quando la fai. Avanti Eugenio. Ciao Tony, ci sentiamo. Tante cose, ciao Tonino, ci sentiamo, buona serata e buona continuazione, ciao ciao, alle prossime. Ok, ciao ciao. Io le mie stavo toccando una con l'altra le antenne, da giù lui. No, ma come te l'ha detto per bada che la bigiata che si era messa truccata? Invece no, è piegata perché c'era vento, è ben normale che si pieghi col vento. È giusto, adesso c'ho anche un'altra mantova fatta tutta nuovo e la devo solo regolare stazionaria, no? I radiali glieli ho messi in alluminio, che in fibra è un casino a trovarle. E io li avevo fatti tutti quanti in alluminio, li avevo messi anche i piridini finali, quelli neri che si mettono in gomma, li avevo comprati da Bricco, e li avevo infilati anche i piridini, attaccati con la colla a caldo e via. E io li ho presi stamattina dai cinesi già, quelli a farine nere. I tappini là, diciamo. Sì, quelli li avevo messi anche quelli, era sembrava fatta dalla fabbrica, avevo preso le misure giuste, ho messo un bullone passante perché si era sballata la boccola, capito? Ciao ragazzi, vado a mangiare, ci sentiamo, ciao, buonanotte a tutti. Ciao ciao, oggi ci sentiamo, dai, stammi bene, buonanotte. Avanti Massimiliano. Ciao oggi, continua a fare quello che stai facendo, vai. Una carichetta quando la fai e ce la riascoltiamo le prossimine, hai capito già? Sì, ma l'ho rimesso tutto a nuovo, là, era in disuso, mi sono messo e l'ho rifatta a nuovo, tutta. Una volta con Fabrizio abbiamo fatto anche la mia, mi è durata roba di 5-6 anni, poi di nuovo mi ha troncato il radiale, ho messo quelli pieni addirittura, per le cornacchie, e li ho legati, gli ho messo una lenza di quella per grunghi, ce l'è presente quella grossa, e l'ho attaccata dal radiale all'antenna. E ho detto, ma così non vi ravvasi, non me l'ha troncata, deve essere che ha volato, invece che volare dritto ha volato di lato e me l'ha spezzata lo stesso. E anche qua è pieno di quelle tortole. No, cornacchie no, ma le tortole si mettono nella spirale, sopra il radiale, grazie a Dio. Quanti anni fa l'abbiamo piazzata già con la mantova qua? Tanti anni fa, sì. E io l'ho tenuta, la mia l'ho tenuta sui 15 anni e poi vabbè l'ho data a Claudio perché mi ero stufato di cambiare il radiale, l'avevo presa nuova ma avevo fatto una cagata a prendere quell'antenna là, perché mi si è troncata, manco un anno mi è durata, mi si è troncata dopo un paio di mesi, l'ho aggiustata e poi mi si è rotta di nuovo, va a piglia di le luci, perché non la voglio più vedere, e ho preso questa LEM. Cos'è quella che è adesso, una LEM? Sì, la Super LEM. È buona, sì, è buona più quella, va bene già. Ti trovi meglio della mantova o che cosa? I segnali sono uguali, ho chiesto anche le comparazioni a Claudio, metto lo stesso segnale che avevi con la mantova, c'è con questo. Più o meno si assomiglia poi alla mantova, no? Sì, alla mantova 1, anzi, questa qua è... in certe cose è migliore. Praticamente c'ha la piastra, quella dove vengono attaccati i radiali e dove c'è anche, si avvita il piede, quella lì nella Mantova 5 si arrugginiva va sempre, l'hanno fatta in acciaio di questa qua, capito? E quindi non si arrugginisce, loro non c'è in alluminio e non si arrugginisce, capito? L'hanno fatto in modo che non si arrugginisca, poi il resto è tutto quanto, no, quello è in acciaio, il resto è in alluminio, i radiali sono in alluminio, ma quello lì è in acciaio proprio, sì, in acciaio, non in alluminio, stavo dicendo giusto. Ma è buono, hanno la stessa altezza tanto, vero? Sì, la stessa. Diciamo che la Mantova è leggermente, ma non di tanto, leggermente i pezzi più grossi, dai, appena più grossi i tubi, ma non di tanto. Ma guarda già, io a fianco alla Mantova faccio una Sirio 2016, quella, non so se te la presente, quella che c'ha tipo il boccione, che c'ha tutto il rame dentro, c'ha 8 radiali, e ti dico che è molto molto più fina della Mantova 1, però c'ha più prestazioni questa, in ricezione specialmente, in trasmissione più o meno i segnali si equivalgono, però in ricezione questa mi piace di più, è anche più silenziosa davanti. E cosa c'ha? Dove c'è la carica è trasparente? Sì, è trasparente, dentro c'ha il rame, boh, sarà grosso 2 mm e mezzo almeno. Sì, la conosco. Anche la Super Regibus era così. Ce l'aveva uno di Porto Torres con l'antenna al satellite. Poi non so se ci sia ancora, ma non la stava più usando sicuramente. Quella lì l'avevo ripristinata lo stesso, no? Ti ripeto, mi trovo bene. E questa ce l'ho collegata lì. E anche in ascolto e roba del genere, i segnali. Guarda, adesso accendo nel canale 10, voglio vedere quanto mi arrivi con la Mantova. Prova già. Guarda a vedere se cambia segnale. Allora, qua con questa sì, 9.18. Vai con la Mantova, vediamo un po'. Prova a vedere. 1, 2, 3, 4, 5. Guarda, con la Mantova sì, 9.20. 9.20, perché la Mantova è anche leggermente più alta di un metro, dai, qualche croce. Questa è un metro più basso, ma siamo lì, vedi? Cappa, vabbè, già va bene il segnale. Questo è il Galaxy. Come è il Galaxy? Ti ho ripreso il Galaxy? Sì. Ah, buono. Io ho ripreso lo stesso. In che senso ti hai ripreso lo stesso? Nel senso che gli ho pagato quello che gli dovevo pagare dell'aggiustaggio e me l'ho ripreso, me l'ha ridato perché tanto lui non aveva posto per tenerlo e me l'ha ritornato a me, capito? È tornato a casa, torna a casa Alessi. Vedi? Vabbè, sono contento. Almeno ti ha restituito la tua radio, dai. E almeno so com'è, questa qui non era mai stata toccata, niente, nulla, proprio perfetta era. E comprarne un altro, ne ho trovato, però comprarne un altro, a parte che i prezzi sono esorbitanti, 300-350 euro, ho bisogno della radio così, ne bisogno un 140, quel prezzo lì. Su internet non si possono comprare i Galaxy, anche 4Z la giuvista, ma stiamo scherzando. Lo so, hanno aumentato tutti però già, il Galaxy, il suo valore è 250 euro. Poi c'è chi lo dà 200, chi lo dà 250, chi lo dà 300, e poi dipende anche dalla radio, capito? In che condizioni è, cioè, perlomeno, io ho venduto il mio era nuovo, capito? Io ne ho avuto 5, tutti e 5 li ho venduti 200 euro, ma me ne sono sempre pentito, e tanto facevo di nuovo lo sbaglio di rivenderlo. È inutile, mi piace questa radio, c'è poco da fare, è una radio che a me mi ha sempre piaciuta. Al tuo gli ho attaccato il starter. Al mio? Va bene, ex. Ah, va bene, com'è? Va bene, sì, no, il turner mi stava rompendo le scatole, non usciva più di radio, non capivo il perché, ho cambiato la batteria, pensato fosse quello, buh, non usciva di radio, la portante prima la radio non usciva. E che cosa era? Che c'aveva le lamelle che a furia di premere la portante si erano piegate e non toccavano, capito? Ecco, quindi magari toccavano appena appena, ti facevo uscire il basso di radio. Quella la radio è bella però, io un po' me ne sono pentito la verità, perché quella con un microfono, cioè una radio è allucinante. Sì, va bene, va bene. E io ogni tanto le faccio girare, non è che tengo sempre questa. L'altro giorno c'avevo Ruiz, per dire, 3009, ogni tanto le faccio girare. Ma questa qua esce anche più forte, qua, così come sta uscendo, l'ho abbassata al minimo il microfono, così meglio va. Ma andava bene anche prima, sì, adesso ho aumentato un po' il radio, ma anche prima andava bene. No, già va bene, l'ho provata, riprovata. Niente, è tornata come te prima. Quando si danno le persone giuste a sistemare, vedi? Uno va a risparmiare a volte 20-30 euro e poi vedi cosa succede. No, non ho risparmiato niente, no. Io non è per quello, è perché qua non c'è nessuno, capito? A me viaggiare in quel periodo non, e nemmeno adesso, Massimiliano, un po', tu lo sai come ti seguivo, va. Non riesco a appoggiare il piede in terra, no? Non riesco a camminare, sto aspettando che mi opinino. Ma non ce la facevo a guidare, capito? Andare così lontano, non ce l'avrei fatta. Niente. Purtroppo qua non ci sono persone competenti che lo possano fare, anzi se ci sono lo fanno per hobby. Purtroppo non ci aveva tempo quella persona che glielo ho chiesto, ma ho detto qua che ce lo sono ben impegnato, non ce la faccio. Quindi praticamente qui stavo girando le scatole, a me quando mi sono che si gosi così e non riesco a risolvere il problema per girare il basso. Sì, vabbè, già un metodo si era trovato per mandarla giù. Accompagnato da un'altra persona, l'avremmo spedita, per quello problemi non c'erano stati, capito? C'erano i figli di Gigi che viaggiano tutti i giorni in zona di Cagliari, di Rio, di Saro, e quindi un metodo già si era trovato, che tanto non è che devi entrare a bordo di lui e aspetta lì all'incrocio, capito? Gliela dai, quando era pronta si restituiva oppure la portavano loro, si trovava un metodo per portarla giù. Ma c'avevo l'Alzheimer. E vabbè, non mi puoi capire, Massimiliano, quando tu fai ordini dei pezzi, aspetti che arrivi, è tutto grande, poi provi, riprovi, cose, non va bene la radio, caso ti gira belle scale. Addirittura abbiamo dovuto tirare dalla Cina dei pezzi. Io te l'ho detto che c'è molta roba cinese in giro. Io quando ho preso i finali dell'S9, li ho comprati come hai fatto tu, da internet, stessa sigla, tutto canto, li ho piazzati e non andavano fatti, visto? L'ho mandato alla persona che lo dovevo mandare, la radio, l'ha bugato tutto e ha messo i finali quelli buoni. Sì, è vero. Vabbè, dai. È stato in gamba Carlo che ha pensato a me, dai, me l'ha mandato il messaggino, se lo volevo di nuovo mi pagavo quello che dovevo pagare e via. Vabbè, sì, no, già una persona tranquilla. Va bene, dai, già, io mi devo allontanare adesso, me l'ho chiamato giù. Ci sentiamo, grazie alle due chiacchiere e alle prossime, dai. Ciao. Ciao, Massimiliano, buona carica, ciao.